enigmi mai proposto e tre a te ne proporrò il mio nome non sai dimmi il mio nome primo sole mio figliolo tu sia Son belle fra lucenti veli, tutto tuo. Parlerò sola. Nessuna ricchezza, no. Vuoi la gloria, noi ti faremo fuggir. Nella realtà non esce nemmeno in merito. Quel nome? Oh. quel nome? La vostra erba chiede perdono, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! sporgi e l'ora chiara d'ogni risveglio dell'alba o mia liu apri Seguirò per Good! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。